Lettere a Radio 24 con la collaborazione di Luca Cremonese. Caro direttore, no, non posso crederci. Proprio ora che avevamo incominciato a capirla. E lei a sbottonarsi un poco di più con tutti noi. Che fa? Ci lascia. Mi dispiace, sì, mi dispiace di cuore per la sua partenza. Mi mancherà la sua presenza costante ma discreta. Il suo modo di saper apprezzare, ma al tempo stesso bacchettare chiunque. Chiunque la faceva un poco fuori dal vasetto, compromettendo con le sue scelte la vita di altri, di tutti noi. Mi mancheranno le sue poltrone per due, le sue domande dentro l'evento, la sua disponibilità, ma anche le sue pause, e i suoi incalzanti «non ha risposto alla mia domanda». Il suo garbato e pacato modo di parlare a tutti, ma soprattutto la sua capacità di invogliare le persone in modo diretto o indiretto a sporcarsi le mani e ad approfondire ciò che seriamente ci circonda, e a rendere questa radio, la nostra Radio 24, una radio per chi non vuole smettere di lottare, ma combattere e andare avanti, nonostante i mille e mille furbettini del quartierino che ci circondano ovunque. Con stima e affetto, Mario. Mi domando se non sarebbe più conveniente per il nostro paese organizzare un servizio giornaliero con 4 traghetti per trasportare immigrati clandestini dalle coste iberiche direttamente nei nostri porti. Si eviterebbero tragedie del mare, le nostre motovedette non dovrebbero correre tutti i giorni in soccorso, durante il viaggio potrebbero essere espletate le operazioni di identificazione. Probabilmente ci costerebbe meno, non dovendo più dar soldi a Gheddafi. Carlo. L'assistente di volo all'Italia ha ragione, non può paragonarsi a un professore di liceo. Io non sono un professore, ma sono un viaggiatore all'Italia del nuovo club Freccia Alata, significa che volo tanto. Non sono d'accordo con l'ascoltatore che ha paragonato l'assistente di volo ai barman. Questi ultimi spesso sono più garbati, simpatici e hanno una migliore proprietà di linguaggio. Oscar. In questi giorni si mettono spesso a confronto gli esuberi previsti per Alitalia e quelli che verranno messi in atto in conseguenza della riforma della scuola. C'è da dire però che il mestiere dell'assistente di volo non è paragonabile a quello di certi insegnanti che, pur trovandosi lontani da casa perché trasferiti, lavorano mezza giornata e hanno 3 mesi di ferie, con tutto il rispetto per i professori. Penso che una hostess, che spesso lavora anche di notte e ha un contratto a 3 mesi, sia sottoposta a stress tendenzialmente maggiori. Sergio. Ho sentito una valanga di commenti negativi per la hostess che ha dichiarato che fa un lavoro diverso, non paragonabile ad altri. A mio parere, quelli che l'hanno classificata cameriera d'alto bordo o cameriera d'alta quota non hanno mai volato, o comunque non si sono mai trovati nel mezzo di situazioni critiche. La hostess, oltre a distribuire vassoi e caffè, è sull'aereo, sa assistere i passeggeri in difficoltà durante il volo, in condizioni di emergenza, decompressione rapida, atterraggi forzati, fuoco e fumo a bordo, evacuazione attraverso gli scivoli e tutte le altre emergenze su cui sarebbe opportuno documentarsi. Si tratta di 200 o 400 persone che in quelle circostanze sono in preda al panico. Deve conoscere 1 o 2 lingue, saper affrontare il jet lag, gestendo le proprie energie nei turni ravvicinati. Non vola se non supera i check a cui deve sottostare regolarmente, come pure quelli fisiologici 1 o 2 volte l'anno, presso l'istituto medico legale. A differenza del radiologo, meglio pagato e che non c'è bisogno sia bilingue e che ha ampie possibilità di collocamento, non ha protezioni di sorta dalle radiazioni ionizzanti, così come il resto dell'equipaggio, e la sua carriera finisce molto prima. La sua presenza a bordo degli aerei di linea, come quella dei piloti, da molti definiti autisti, e che la pubblica opinione vuole esperti e preparati, costituisce per il passeggero una forma di assicurazione che in circostanze impreviste, e che devono essere responsabilmente temute, può essere definita un'assicurazione per la vita. Mi pare che mentre in Italia, attraverso il lessico dei nostri giorni, ci sia una rivalutazione di molte professioni, cito solamente lo spazzino che è divenuto operatore ecologico, per il pilota divenuto autista e per la hostess divenuta cameriera d'alta quota, si remi in senso contrario. Alberto. Io credo che gli ammortizzatori sociali, a favore dei lavoratori dipendenti che perdono il lavoro, andrebbero riconosciuti solo nel caso in cui un'azienda chiuda e chi ci lavora non abbia al momento alcuna alternativa di occupazione. Nel caso di Alitalia, invece, non mi sembrerebbe giusto, poiché questi dipendenti hanno avuto una buona possibilità di continuare a lavorare e hanno scelto, attraverso i loro rappresentanti sindacali, di rifiutare un nuovo contratto, perché è un po' diverso dai precedenti. Perché gli italiani che sgobbano per se stessi dovrebbero anche farsi carico di persone che scelgono di non lavorare, a condizioni spesso migliori di chi sarebbe costretto a fare sacrifici anche per loro? Non è giusto e non è logico. Solamente molto molto comodo per chi può vantare tali privilegi. Giulia. Ho sentito le dichiarazioni di un rappresentante dei piloti Alitalia, appartenente al fronte del no, che sventolando il contratto proposto da CAI, contestava, in particolare, la parte che riportava la possibilità da parte della società di assumere il 25% di piloti all'estero. Il rappresentante Alitalia sosteneva che questo fatto sarebbe di grave pericolo per la sicurezza dei passeggeri. Cosa intendeva dire? Che i piloti non Alitalia sono incapaci? Che non sanno pilotare un aereo? Che non hanno il brevetto di volo? O non sono sottoposti a visite ed esami periodici? Questa dichiarazione fa il paio con quella di qualche giorno fa di un altro rappresentante sindacale che sosteneva che lo stress dei piloti derivante dalla trattativa potrebbe nuocere alla sicurezza dei voli. A mio parere queste affermazioni dimostrano solo che chi le fa non ha nessun argomento veramente valido da portare nella discussione in corso. E se fossi un dipendente all'Italia, mi preoccuperei molto per essere rappresentato da simili persone. Alberto, da Varese. Se ci fosse davvero un referendum tra i dipendenti all'Italia, sarebbero in netta maggioranza i lavoratori che assolutamente non vogliono sentire parlare di CAI. Per quanto riguarda l'assistente di volo, è retorico attaccare una categoria per un'uscita infelice di qualche lavoratore che, indubbiamente, vive una situazione psicologica difficile e stressante per il fatto di non sapere nulla del proprio prossimo futuro. Luca. Egregio direttore, in tutto il vociare che si fa sul caso Alitalia, mi permetto di porre l'accento su di un aspetto, una variabile, che reputo centrale, la base di un modello di acquisizione o di piano industriale che qualsiasi azienda, CAI compresa, dovrebbe privilegiare. Il cliente, in questo caso il passeggero. Ci si lamenta che il cittadino italiano non sia un utente cliente avanzato e moderno. In sostanza, ci lamentiamo che le banche ci fregano i soldi, che l'RC auto aumenta indiscriminatamente, ma solo una piccola parte di noi cambia compagnia assicurativa o istituto di credito. Quando ero piccolo andava di moda il motto «Fermate il mondo, voglio scendere». Forse è arrivato il momento di fermare tutto. Smettere di parlare di privilegi dei piloti, di conflitti sindacali, di colpe storiche. Forse è arrivato il momento che ogni cittadino italiano abbandoni l'azienda Alitalia al suo destino e prediliga altri vettori o altri mezzi. Anche perché ho l'impressione che la CAI, da monopolista, non avrà particolare riguardo nei nostri confronti e il treno è più sicuro anche se il rinnovo del contratto del macchinista ne dovesse risentire. Cordialmente, Ilario. Lunedì devo recarmi per lavoro a Venezia. Ovviamente per non correre il rischio di restare a terra ho dovuto prenotare Air One. Peccato che la tariffa per il biglietto di andata e ritorno sia improvvisamente lievitata da 220-240 euro a 390 euro. Chi aveva parlato di riduzione delle tariffe per i voli interni? Marco, Napoli. Il ministro Matteoli dice che Fantozzi ha cercato in tutti i modi altri partner, anche con Lufthansa, parlando direttamente in tedesco. Mi chiedo, ma quali partner possono mai venire in Italia quando il presidente del Consiglio, Berlusconi, aveva annunciato la presenza di una cordata italiana? È chiaro che tutti scappano, come ha fatto Air France, che legava l'accordo anche a un gradimento del governo, non certo quello di Prodi, ma di quello a venire di Berlusconi. Notate bene che chi parla di esuberi cerca di girare la frittata dicendo che il piano CAI prevede l'assunzione di tot dipendenti e che quelli che vanno a casa dovrebbero trovare una collocazione con la mobilità lunga, 8 anni. Ci si rende conto che quando non si è più giovani, superati i 38-40 anni, le opportunità di essere ricollocati nel mercato del lavoro sono debolissime, se non quasi nulle, e che a volte, se non si è abbastanza forti di carattere, si può cadere in depressione. Siamo un paese a crescita zero, che è invecchiato, senza poli industriali trainanti, con industriali che hanno smesso di farlo e che fanno solo i finanzieri, con un costo del lavoro enorme, con una corruzione strisciante enorme, con una pubblica amministrazione che non funziona, salvo alcuni casi, in cui per fare impresa si devono fare salti mortali e lottare con inefficienze burocratiche, in cui la politica ha invaso tutti i settori, anche quelli che non gli competono, esempio fra tutti le nomine dei primari ospedalieri, eccetera. Vorrei sentirmi orgoglioso di essere italiano, ma siamo un paese che dorme e non guarda avanti. Pino, Reggio Calabria. Credo che di fronte ad episodi di violenza e guerriglia scatenati da extracomunitari, dovremmo tutti seriamente preoccuparci. Vorrei ricordare il pestaggio di alcuni vigili urbani da parte di clandestini peruviani avvenuto alcuni mesi fa nel nord Italia. La rivolta dei cinesi a Milano, la guerriglia urbana avvenuta sempre a Milano ad opera di africani fomentati dall'estrema sinistra e infine le violenze poste in essere sempre da africani nella zona di Castel Volturno. Qualunque sia il pretesto, la violenza non può mai essere giustificata. Io credo che se lo Stato non attua una politica di rigoroso controllo del territorio attraverso espulsioni effettive di tutti i clandestini, presto in alcune zone di Italia rischieremo la guerra civile. I fatti di Parigi sono dietro l'angolo. Guglielmo. Sant'Almassi, dopo i CUS del centro-sinistra, siamo ai Didorè del centro-destra. Una comica finale, mi sembra, da cui le convivenze di fatto usciranno con le ossa rotte. Che triste fine per chi spera un minimo di legittimazione di realtà consolidate. Anna, Bergamo. Anna, lei ha ragione, ma direi che linguisticamente parlando siamo al tragicomico. Il comico è stato largamente superato. Dunque, ricapitoliamo. Tutto cominciò nel 1999 in Francia quando furono approvati in Parlamento i PACS, i patti di convivenza sociale, così erano chiamati e li abbiamo chiamati così per lungo tempo anche da noi. Da noi poi, ma attenzione, siamo arrivati al 2007, cioè 8 anni dopo i francesi, arrivarono i DICO, cioè i diritti dei conviventi o delle convivenze, proposti dal duo di centrosinistra Bindi-Pollastrini. Poi, siccome sembra che non si potesse parlare di diritti per chi conviveva di fatto, grande lite all'interno del centrosinistra, si passò altrettanto inutilmente a un'altra sigla, i CUS, i contratti, non i diritti, capito? Di unione solidale, capito? Adesso, finito il centrosinistra e andati a casa tutti quanti, quelli per chissà quanto, siamo arrivati ai Didorè. Diritti e doveri della reciprocità proposti da Rotondi e Brunetta, ministri di centrodestra. Anna, che devo dirle? Che l'etichetta conta poco e dovremmo concentrarci sul contenuto. Qual è l'idea di Brunetta? Affermato, parole sue, che il matrimonio non deve avere né mimesi né imitazioni, perché la famiglia è quella prevista dall'articolo 29 della Costituzione. Tuttavia, sostiene Brunetta, ciò non toglie che esistano altri legami che non sono beni pubblici, ma possono essere considerati beni meritevoli di una certa attenzione, a prescindere poi dal sesso. Da buon laico, dice Brunetta, non voglio che lo Stato si infili nel letto e guardi sotto le lenzuola. Di qui la sua idea di un testo unico che possa migliorare la vita di molti cittadini senza spese per lo Stato. Tra i diritti, Brunetta dice visitare il convivente e accudirlo in caso di malattia, designarlo come rappresentante per le decisioni in materia di salute, donazioni degli organi, trattamenti del corpo, celebrazioni funerarie, succedergli nei contratti di locazione. Tra i doveri, gli alimenti, per esempio, e per un periodo proporzionato alla durata della convivenza. Nulla è detto, per esempio, tra i diritti sulle pensioni di reversibilità, che qualche cosa lo Stato costerebbero. Basta tutto questo? Ce lo dirà il futuro, ma anche la nostra attenzione critica senza pregiudiziarie. D'accordo, Anna? Grazie comunque.